fare, Marconi? Natalia, ma Giulio senti basso di radio, ma qua la modulazione non è, è tutt'altro che bassa. È tipo 8,5 di segnale, ma la modulazione è buona, cioè come volume. La timbrica, vabbè, quella di quel microfonino lì. Ascolta, c'è un abisso tra te e lui di radio, capito? Ecco perché gli ho detto di salire un po' la radio, per essere un po' più comprensibile. A me mi arriva 9,95 il segnale, buono, però la radio è troppo bassa. Ecco cosa gli stavo dicendo. Ma io l'ho amplificato, ce l'ho a metà, sto parlando anche abbastanza piano per non disturbare mamma che guarda la TV. Amplificato a metà, il mic gain però di quell'apparato che ha Giulio non va messo a metà, va messo al massimo, a 63, capito? E se no è come mettere il mic gain a metà, non ha senso. Infatti ce l'avevo io quell'apparecchio, quindi lo conosco, è per quello che gli ho detto la radio era troppo bassa. Perché tu c'hai il microfono amplificato, sento a Claudio lo stesso che confronta voi, è zero di radio lui, e cosa devo fare? Abbassare il volume a voi e non intendo a Edu. No, casomai lo abbasso io. Ehi, aspetta che devo pigliare, devo fare il caffè, dai, mi devo assentare. A dopo, vai Claudio. Io beh, non tocco mai niente, questa è sempre la mia modulazione, non è che devo stare tira molla. Va bene così, questo io ce l'ho sempre a 2, il 430 è sotto la C140, qua c'è solo inserito, tutte e due MC60, quindi c'è poco da sbagliare, ma questa è un pochino più forte, un pochino più alta, 140, insomma, siamo sempre lì, noi ci abbassiamo a Tari. A Tari, così va meglio? Metti la 63, vedrai la radio diventa 5, perché se no mi tocca salire il volume quando parli tu e abbassare quando parlano Claudio e Marco. Perché sei basso di radio, non è che non è buona la radio, è bassa di volume. Ho capito, non lo so, aspetta che provo a fare la combinazione, se mi riesce, vediamo un po', dai. Lasciala un fatti, ma tira su, metti al massimo la radio, Giulio. Perché se c'è QRM faccio fatica anch'io, Se c'è propagazione, è un casino. Il segnale già è buono, sei in off. Però la radio se l'aumenti è meglio. Quindi il segnale è anche più forte, arriva a 9,5 qua Giulio, arriva. È la radio che è troppo bassa, ecco perché gli stavo dicendo, per la propagazione, se entra la propagazione, a lui non lo sentiamo, hai capito cos'è il discorso? Io non dico di salire i watt, perché il segnale è buono. Va bene il segnale 9,5 per Sassari, ce n'è per i turci, però la radio confronto a voi è bassissima, lui la può regolare dal menu lì. Vediamo se così va meglio, non lo so, adesso ho fatto questa combinazione, non so cosa dire, Natali. Ma quanto è adesso? Adesso è 63. Lasciala così, già va bene. Sì, sì, ha aumentato, lasciala così, che va meglio. È più forte, anche più chiara. Tu che parli piano, che non gridi, capito? Anche io sto parlando piano, e non è che sono 20 centimetri dal microfono, però vabbè, io sono amplificato. Ma va molto meglio così, ci devo lasciare così. Ok, dai, sono entrato nel menu e ho fatto molto meglio. Ho trovato la combinazione, dai. Se no, se entra la propagazione ti copre, capito cosa ti volevo dire? Non è altro, no? Così almeno la radio va molto meglio di come di poco fa. Poco fa era troppo bassa, per il segnale che era, la radio era proprio bassa, scadente. Invece adesso va molto meglio. Ok, va bene, dai, dai. Ci sentiamo dopo, dai, che andò a mangiare il gelato, dai. A dopo. Ma fa cosa mini lì, lo sai che sono diabetico, me lo vorrei mangiare anche io uno. Mangiatelo, e fare un gelato? No, è meglio non far star busy. A che volta si può fare, ma non sempre. Parla. L'ho riagganciato al coso, va. E perché sto facendo così basso qua? Basso, no? Ora, ora. Adesso puntando sta. No. Quella se ti ha fatto il suo difetto. Ma non sarà un gavono. No, no, no. È il coso. Ne ho messo un altro, vedi che. Va, oh, oh, oh. No, il difetto che stava facendo a me si sta facendo, perché è così, è quel cazzo di coso, di interruttore. Ma ha detto che ci sono quegli interruttori, Franco, da Fusaro. Ma bisogna che ci vada. Adesso ho cambiato microfono, bisogna che lo controlli con lui. E lo stesso difetto stava facendo a me. E gli si interruttori, maledetto. Vabbè, volevo provare, te ci avrei. Lo tocco, ma so a parte là. Franco me lo stava dicendo che praticamente quegli interruttori lì si trovano da Fusaro, ha detto. E ci vado lunedì, vedo un po' se ce la lo compro, lo sostituisco, tanto non per stare a girarti le balle. E infatti ormai deve essere consumato e non venuta di va. Gappa, è così, vabbè, comunque abbiamo risolto, tu già c'hai quello lì, forse intanto non è mio, il Valerio, e glielo lo faccio, lo metto a posto, poi non lo tengo io, intanto già ne ho altri io. Su 430 e 140 già ce li ho, gli anni 60, quello era in più. Ma su questo lo metto a posto, non tengo di scorta. Caffa, anda bene mela. È proprio quell'interruttore, capito? È proprio quello, non c'è niente da fare. Questo è quello più vecchio che ho. Questo è uno dei primi che ho comprato. E ha sempre funzionato bene, non l'ho mai ducato. E infatti. Basta non toccarlo questo interruttore, che sennò è un macello. Ma io non l'avevo già amplificato, non avevo pensato che la ci dovevi toccare. Adesso sono con 140 e anni 60. Ci devi toccare. È chiaro che se stai tocca. È un carboncino piccolino, sono dei micro interruttori, quindi si rovinano, si rompono. E infatti. Cosa vuoi ti dica? Anda bene mela. Già va bene. E beh, Marcolino, dici che vado a bere anche io, 17. Ma guardando ce ne ho uno, leggermente, ma proprio un pelino più grande. Se entra nella sede ha gli stessi attacchi. Se entra lì nella sede ha gli stessi attacchi, magari anche più robusto. Uno! Che? Buona starter, mio hermano! Salve! Sto andando a farmi un giretto, va! Gaba! Me ne vado all'asilo! Eh? Me ne vado a Osilo! Gaba! Ma che fai a Osilo? Ah, perché è Donato! Vai a prendermi un po' di fresco! C'è troppo caldo! Senti, ce l'ha da morire, per carità! Ah no! Da Morisolo viene. Dove sei a casa, fra? Ma poi c'è giù che me ne vado via col camper tra un po'. Direzione? Direzione Porto Tintino. Era per Bottica, la muri di gatto. Direzione al paradiso. Ciao Cla, ascolta, come va? Questa è l'altro spezzone che ho fatto, Alla grande. Dico quello all'altro, no? Va bene? Ok, dai, adesso ne ho due, uno me l'ha fatto per me, di scorta. E uno per te. Via, va bene. E così ce l'abbiamo sti corvetti, perché a ordinarli mi stanno mandando di merda proprio. Che ti ho fatto vedere? Cazzo, ma mai quello l'ho comprato Antonio, l'ho regalato Antonio, oggi ho fatto brutti di lui. Altro che hanno mandato, hai visto come l'hanno mandato? Tutte le soldature fatte a culo di scimmia, a credere. Allora questi che ho fatto io quanto valgono questo filo Gucci? Chi ti riso? Beh, riso. Poi se si fa, scegliete tranquillo che non ti si rompono più. Ma quanto euro costa il cavo spiralato con le bici 60? 30 euro. E non scegli a nuda, a nuda. Perché con l'andare del tempo ti si stacca. Capito? Ti si stacca, scusate che sto controllando. Se l'interruttore che lo fa bene, mettiamo l'interruttore. L'interruttore nuovo l'ho trovato con l'MC60, sì, va bene, è leggermente più grande, ma nella sede entra, va benissimo, adesso mi attacco il serratore, glielo metto, così lo provo, quello che ci aveva chiamato Valerio. Avanti già. Ehi, non so se mi state ascoltando bene sempre, sto andando verso Usilo. Ehi, vai verso Usilo tu, vai verso Usilo. E vado dove c'è il rifugio dell'Aquila. Vai verso Usilo, vai. Attento, non si dimusingheggia. Ciao Fra. Adesso vado e mi faccio il caffè, alla faccia di chi non vuole. Che caffè stai usando? Tatalino. Aspetta un attimo che stavo soldando, adesso proviamo l'altro microfono, vediamo se funziona, se lo attacco. Via, ti dovrò vedere, cazzo, ma ti fischiate sopra la gente. Cosa hai detto oggi? Penso, un interruttore normale, ti ha giudito. Un interruttore piccolino, sì. Ce l'avevo, ho guardato nella cassettina, ce l'avevo, ma se l'ho sostituito. Aspetta, questo è il mio, adesso attacco l'altro MC60. C'è Giulio ancora? No, è andato a mangiarsi un gelato. Io mi sto prendendo il caffè alla faccia tua, poi vedi tu. Come è andata lì, no? Ciao Franco, mi sembra. Io ho già bevuto i miei Natalì e Gianni ti avevo chiesto che marca era. Anche a me è piaciuta, era poi quello che uso io. È buono quel caffè. Ma la macchinetta è tipo quella che c'ha Franco, che c'ha Gianni, voglio dire. È della stessa marca di quella di Gianni. Solo che la mia è più piccolina, quella di Gianni è più grande la macchina. Non l'ho trovata uguale a quella di Gianni, se no me la sei ricomprata come quella di Gianni, ma fa un cappuccino, alla fine manca il bar se lo fanno così. E anche il caffè lo fa buono. Cosa ti volevo dire? Lo sai cosa ho cucinato oggi? E cosa? Un'andata di fegatini che ha fatti, anche il sugo ci ho messo, wow! Una bomba è uscita. Poi mi lascia i fagioli, mi sono fatta a beffa oggi, a pranzo. Bravo! Glicemia a 4! Arrivi tu? Non rispondi, no! Ha detto Gianni, la glicemia a quanto è salita? Non lo so, perché me la devo misurare alle 7, però ce l'avevo bassa stamattina, 88 ce l'avevo. Ma dopo ho mangiato! Sì, alle 7 te lo dico quanto ce l'ho, prima di cena. E così sappiamo a quanto è riuscita a aumentare. E la minestra pagionote fa il concerto. Stanotte mi farà giocare da Rosi con Dubiano. Non ti accorda l'antenna, si accorda Natalino. Stanotte grande bombardamento, ricordo un missile per aria e ne farà giù su Edu. Occhio che c'è materiale esplodente lì, Come? Ho detto Natali, occhio che c'è il materiale esplodente lì. Vabbè, già lo punto verso il soffitto. Mi bonga panza a terra. Come quel film di Alvaro Vitali dei militari, ti ricordi? Vai Franco. E almeno gli calano anche le stazionarie. Da 1 e 5 le porta a 1 e 1. E beh, lo grido. E come ti piace la modulazione, va? Ti ascolto benissimo, io ti ascolto bene. Marco, bene, mi ascolti? Ottimamente, siete tutti un bijou. Claudio, vabbè, Claudio non ne parliamo. Natalino, eccellente, Franco, lo stesso. Tutti bene qua sul canale, vi ascolto. Vediamo se è rientrato Giulio. Giulio, ci sei? Ma c'è, si entra il processore, Fra. Adesso era col processore, non era accorto, era staccato. Cazzo via, mi hai fatto aspettare dietro, già la stava, ero bumo, già fa niente. Bene, va così. Così devi uscire tu, si attacchi, si attanto devi uscire così. Io ho cambiato quel microinterruttore e ne avevo uno. Sta andando bene il microfono? Un buon po' qua. Sì, sì, benissimo. Mi sono ricordato che l'avevo staccato da un uguale, preciso identico, appena più alto. Ma no, non ne fa niente perché esce dalla sede. Era perfetto, gli attacchi erano a due lo stesso, glielo ho messo e quindi già va bene, dai. È un po' che è arrivato Gianni. Ma perché si muove lo smitter? Calcio, rientro, no? È come un crepitio. C'è il PTT da mettere il CRC. A momenti va. Claudio, vabbè, io sto utilizzando lo stesso apparecchio che ha Giulio, lo stesso mic di serie, però col trimmer aperto e il microfono liberato da quella spugna super pressata. Avrei voluto Giulio per un confronto, vorrei sentire la differenza della timbrica. Enorme, abissale. Io l'ho sentito e sento a te, ed è abissale. abissale addirittura, come qualità di modulazione, dici? Sto dicendo, ha messo il cosa 63, quindi al massimo, però come modulazione sia di volume che di chiarezza è una limpidenza unica. Guarda, la tua c'ha una presenza abissale confronto a Giulio. Giulio sembra una radio così, piano piano piano piano, capito? Tu invece ti intendi proprio la radio. Sembra che stai usando un microfono preamplificato, però la radio è fantastica quella che è tu confronto a quella di Giulio. Giulio forse non gli ha aperto quel trimmer che stavi dicendo tu. Guarda Marco, se lo fa ancora quel clicchio o se caratta la radio. Calata la radio? Sì, la modulazione è calata tantissimo, però non ha crepitio. Bisogna capire se è il PTT o se è il tappeto, le saldature dello spinotto, boh. No, avevo tolto l'amplificazione per vedere se lo faceva. Senza amplificazione non lo fa, invece l'amplificazione a volte lo fa. Vabbè, controlleremo, intanto questo ce l'ho aperto, lo sto controllando. Vediamo un po' dove è fatto Gianni. È stato annito. Dove sei passato? Non sei passato qua davanti? No, dalla Bunari. Non ho capito, Non ti sei accorto di niente, non hai visto niente. No, già dovevo partire il lasci. Lo senti il lasci? E lì c'è un pastore, c'è un amico mio lì, ogni tanto mi porta sempre roba, no, perché si è facciato davanti, le antenne non le hai viste. No, ho fatto la strada vecchia, qua. È nato la strada vecchia, anche se fai la strada vecchia, prima di arrivare alla strada vecchia ci sono io sulla destra. Ah, boh, non lo so, io pensavo che fosse all'interno della strada nuova. Sei passato avanti a quel muro a secco lungo tu, a destra. E io sono lì. Cavagata, eccomi qua, arrivito. Va bene, ti sentiamo forte e chiaro. Avanti, riprendi. Franco, non c'è, dove sei arrivato già? Sono al nido dell'Aquila, al rifugio dell'Aquila. Ah, Cavagara. Come mi sta ascoltando di radio? Come quella di Claudio? Una bomba, Natalisci, va benissimo. Non stava funzionando il microfono, non amplificava. Invece questo adesso già sta amplificando, capito? Quello scherreggia forte. Cosa ne date? Un bacio al Buraghisso? Che bella, cosa vuol dire? Che li bomba? Cosa volevi sapere? La marca del caffè che stavo usando. Eia! Caffè Suerte, 2,50 il pacco. No, io uso quello di ditta ed è buonissimo, fa la crema al tartare. Anche questo, mi ha invitato a Marcolino, l'ho invitato, il caffè, e gliel'ho fatto vedere che fa la schiuma bella amprosa, ma anche il cappuccino fa bene, perché è della marca della macchina tua, solo che la mia è più piccolina, non è grande come la tua. Se vi sente mia figlia usando queste marche di caffè. Casco, se vi sente mia figlia. Mia figlia lo usa per uso professionale. Dimmi se conosce la bassa qualità blu, e tanto quel carucchino. Io penso che lo conosce. Io pure lo conosco, Baiommi. No, lei al bar c'ha Illy Caffè e a casa usiamo Illy Caffè. E la macchinetta è della Illy Caffè. Che cortano per il Guganto, però lì gliel'hanno regalata perché supera i 3 kg al giorno di caffè e quindi hanno regalato la macchinetta. a casa lei porta dal bar già pronto, macinato il caffè. E ti dico che ho messo i biglietti a rubare, anzi, meglio. E allora che di tu a Cinoghi? E ti posso vedere Cinoghi, che il caffè è il più buono in assoluto, il caffè, lo sappiamo. Però tu, vieni qua, ti posso vedere un caffè, chi fa di questa macchinetta che va giù? È una dei lunghi. E il caffè è suerte, tu so qui a disegna vaga il caffè. E da poi mi dà la ripulsa. No, già è buono per casa, le suerte, la faccia, quelle cose di però. Al baviglie numero uno, però lei ce l'ha, siccome lo vendono anche, il caffè, il lì, in baratto. Ah, intanto ne porta due o tre barattoli e teniamo a casa, capito? Ed è buono, la macchina della Illy. Caffè non a cialde, caffè macinato, metti dentro, come che lo prendi al c'ha il pressatore, lo presci, c'ha il braccetto, è come lo te lo prendi al bar, capito? KK, avanti io va a Pignara, dimmi sempre se senti quel rumore o se è sparito, ti ho fatto una regolazione. Prima un po', due passaggi fa l'ho sentito, adesso no, all'ultimo no. Potrebbe essere anche la capsuletta che a me l'aveva fatto, lo sai. L'MC60 appena toccava e non toccava, poi gli dava un colpetto e tornava a funzionare. Bene, va bene, io rimango un po' in bianco, vado a bere, sto smontando questo mic e passare un po' di CRC sul PTT che è microscopico qua, c'è tutto un circuitino al microfono, credo fosse vuoto, la capsula fa ridere in questo baracchino, fa proprio ridere, è una capsula di chicchiami. Ma tu pure fai ridere a dire che stai mettendo il CRC nell'interruttore, non ci vuole quello che lo isola, metti quello per i contatti, non il CRC. Il CRC metti quello dove dico io. Bene, no, va bene, io lo chiamo il CRC, ma sai qual è? Il pulisci i contatti, sossi da contatti, Dreigot, quello che vende Fusaro a 8 euro a bomboletta. Quello che lo spruzzi e in pochi istanti evapora, non rimane bagnato. Quello lì, Natalina, fin lì ci arrivo anch'io, non metto mica il balistol, no, o il WD-40, quello è olio. Io credevo infatti stavi mettendo quello, è quello che ti ho detto cosa. Io c'ho quello della Maurer, ma non so quanto l'ho pagato, ma è fantastico. Ecco. Magistrato, è quello con la scritta verde, Marco, ce l'ho anche io. 7,50 me lo fa pagare, ma è fusato. Avanti, break. Gianni da questa parte, buonasera a tutti. Ma Gianni chi? Perfetta. L'unico e inimitabile, The Prophet. Quello che mi rompe lo smicco, e che di turbo su bagammi? Segna Natali, segna, buonasera a tutti. E un conto vecchio? Segna. Io segno, Ciao Claudio, buonasera. E ciao Marco. E anche al doppio che si trova in punta. Mi senti Gianni? Doppio room, quello di Osilo, mi senti? È sceso a trovare la ragazza. Ah, era innamorelli, doia. E allora, sei innamorelli, Issu. Come ti intende a vado in radio? Meglio vado. Ehi, a puntella, non toccare più niente. No, l'attacco che ho messo non va bene lo stesso. E anche la passata ai mille chiodi, ma di mille chiodi, te dammi di... Quanti diciamo che di tubetto? Ma... Aiutami. Ehi, vabbè, attacchemi. Non ci siamo a mille chiodi. Quella fa il liquido che poi si indurisce. Ehi, mille chiodi, già è quello. Adesso Natalì, ci vuole l'antenna. Hai risolto il microfono. Aio, facci vedere questa antenna, faccela vedere, aio. Vabbè, la lunedì vi farò segnare. Ciao Gianni, sono a microfono aperto e non posso un attimino. Ciao Marco, buonasera. Oh, yeah. Così Dai, adesso le belle giornate sono arrivate, non c'è più alibi, eh? Lo so che non c'ho più alibi, la prossima settimana cominciamo, così vedi, ma non ne vedi una, no? Non ti spaventare quando passi qui vicino. Ciao Gianni! Milovini! Ciao Doppio! Allora, tutto bene in quelle coordinate? Come mi senti su? Benissimo già, una bomba. Me ne sono sceso perché devo cambiare l'acqua alle olive, non ti potevo rispondere. Ho capito, dai, avevi le mani impegnate. Bene, Meda, anche tu arrivi forte, dai. Non abbiamo ostacoli in mezzo, dai. Sì, vabbè, qua io c'ho di fronte la chiesa, la collinetta della chiesa, ma dall'altra parte sono tutto libero. C'aveva qualcosa in mano Gianni, quindi non ti poteva rispondere, capito? Ascolta, tecla. Non mi ascolti? Fondo scala. Che tu 40, pieno. Che bagala. Non c'è nulla attaccato, questo apparecchio va bene. Cazzo, se ti vedo io dove sei, se prendo il binocolo ti vedo. Ma già vedo la punta della chiesa io qua. Che bagala. E io quanto sto arrivando a Osile? Natali, non c'ho occhiali, cazzo, c'è due occhiali da sole. Prova. Mira a vedere quanto arrivo. 9:10, sì, là. Cazzo, sempre basso arrivo, boh. Se ne abusano perché sono piccolo e nero. Se li morivi, canto morivi, Antonello, Roberto Quadrato, 9:40. Ma propagazione stasera non ce n'è, io che sono in alto voglio farmi qualche 10. Boh, tutto tacce, non c'è niente stasera. E ti dirò che si sta anche bene, non c'è caldo, c'è il sole ma c'è ho ventilato qua, c'è finestrini aperti, si sta da Dio. Sì, c'è un po' di greccale, va bene. Ma io se passi a 555 ti faccio fare il DX. Guarda lì, perché cosa c'è Gen? Ti mando pure la QSL, no forse ce l'hai già, quella che mi avevo fatto io, te lo ricordo. Io ce l'ho anche io. Io ne ho due tipi di QSL. No, io non ne ho più. Io ne ho già una maturata ancora, c'ho quella con la botte, con l'antenna sopra e io che esco col microfono in mano. E il baracchino che si vede. E poi ne ho un'altra dove ci sono solo scritte 7351, doppio room, eccetera, eccetera. Non ci sono più la male QSL. Ormai è tutto online. E a me mi è arrivata la posta elettronica. Sono ben ricordi, dai. Ehi, anche io ce l'avevo a casa di mamma, Bulbo, chissà di andare a finire. Che ce l'ho andata a finire. Vabbè. Adesso torno a aprire, c'è qualcosa che non mi convince. Riprendi Natalia, un secondo che voglio vedere se c'è la saldatura è fatta bene, anche io già sono mezzo gigo perché mi accorgo che ogni tanto fa qualche scarichetta. Magari la saldatura è fredda, io sto scendendo a basso un attimo. Confermo è per ironica. Vero già, te ne accorgi? Guarda. Non so se lo sta facendo adesso. Lo vedi? Sì, è leggero. Come un raschiare, no? Un soffio, qualcosa del genere, no? Ma non lo deve fare, mi ha rotto le palle. Adesso devo eliminare questo coso. Il fatto che il microfono stia già funzionando, questo mi fa piacere. Sembra che ci sia, che il contatto non sia perfetto oppure qualche contatto sporco, la sensazione è quella, capito? Sento questo rumore, è come quando smanetti dei cavi audio che si sente quel rumorazzo di fondo, dai. Allora, qua è molto più attenuato, dai. E magari qualche saldatura da ricontrollare, o magari qualche cavettino messo non nella maniera giusta, boh, possono essere mille cose. A me mi era successo con un microfono, con un palmare, avevo rifatto bene tutte le saldature, accorciato i fili, il tanto che basta, e il rumore di fondo era sparito. Io se lo apro, aspettatemi un secondo, volevo vedere se le spinette sono incastrate bene. Sembra un problema di spinetta, tanto ne ha due, vediamo un po' com'è la situazione. Lo prendi dopo. Ehi, là, appentati che ce la fai. Natalino, come ti sta arrivando di segnale, Natalino? 9:10, mi sta arrivando già. È lo stesso segnale tuo, allucinante. E vabbè, tu mi arrivi con lo stesso segnale di Gianni Lubroffetta, più o meno, siete uguali. Siamo lì. Però il profeta mi ha fregato che si è alzato l'antenna, puzzinoso. ma io c'ho una boomerang, quindi chi è il più piccolo e nero? Tu ce l'hai più lunga, però è... come ti dici? Capuzzetti, là. Tu sei ingagnoso che c'è il palo più lungo, c'hai. L'hai visto? Sì, che l'ho visto. Mi hai fregato, mi hai. Sì, Gianni, anche tu sei più o meno 9:10 qua, dai. Ti ascolto bene tutti quanti. Marco è a riprese con questo microfono. Come sei messo, Marco? Arrabattando, dai. Qua sono 9 watt spiccioli per la cronaca. Cavagara. Va bene, tutto ok. Aspetta un attimo. C'è propagazione, so. Anche a Filippo. È raccolizzato fuori. Ma non va di viola. Avrà sé. Sì, vai, Beppe, non ce la faccio. Vedi che non fa piovere. Gardena, coricati di sotto la scrivania di nonno, va, e c'è fresco. era fuori sdraiato nell'erba, e c'è sole. Si sente? Ah, va. Domani. Cosa c'ha? Nulla, c'è la relazionetta che non è incastrata bene, adesso non fa più. Senti. Niente. A posto. Andiamo a fissare. Ehi, quelle spinette sono talmente delicate che se non la inserisci bene, capito? Magari qualche puntale non stava toccando bene, quindi la schiava, perché lì passa l'alimentazione dell'amplificazione, capito? Ce ne abbiamo un altro. C'è il vende Natalino. Forse non è Natalino, chi è che vuole entrare? Qua. Cosa? Non segna il va. Ciao, stai io scendo basso. Brava, l'hai combinato? Nulla. Aspetta. Cazzo, affanculo, per forza non segnava. E adesso non è basso però. Cazzo, ma forse non segnala. Ma sei più basso di prima, Natali. Più basso di prima? Mi pare strano. Aspetta. Prova adesso. Adesso sei tu. Vuol dire che ha regolato così perché non ne ha tolto il rosmetro e tutto. E non mi sa... Era in SFR, per forza non mi segnava i watt, capito? Dovevo mettere in PVR per sapere i watt. Ora ti sei di nuovo abbassato. No, c'è qualcosa che non mi convince a me. in questi tuoi collegamenti, non stai uscendo come stavi uscendo poco fa. Non vedi se sei calato a 9. La radio è rimasta invariata, cosa sei ducendo, cosa hai combinato? Nulla, volevo regolare il VAT, solo che l'avevo messo in PV e in PV e in SVR e mi segnava le stazionarie che non ne ho, capito? Ma il frutto segnava zero. Ho capito, ma quello strumento che tu c'hai in quella radio, c'hai lo smitter, c'hai il VAT della GAB, la scala da 0 a 100 VAT, anzi a 150, e le stazionarie metti in power, ok, e regolare a 20, e 20 sono, 30, 30 sono, 10, 10 sono, aspetta un attimo, metti la portante fissa, fissa, che non, con il processore, stacca il microfono, col send, in modo che non si muova lo smitter, metti la portante, in VAT, nello strumento della radio, in power, li metti a 20 watt e lo lasci stare così, e c'ha picchi di 80 con la radio. Già lo so, oh, vedi che adesso sei tu. 20 watt, sempre 20 watt, non le tirate di più con la radio, perché hanno picchi di modulazione allucinanti. Io ce l'ho a 20 watt, picchi da 50, e non sbaglio, sia sulla radio, che è perfetto lo smitter di questo 140, perfetto. Sulla T250 sta segnando 20 e sullo smitter della radio sta segnando 20, quindi posso anche toglierlo la T250, ma lo lascio perché l'accordatore è automatico. Uia, uia, che sono in parvo il becio, ma c'è male bene tra testa e radio io. All'inizio sta uscendo bene sto microfono. E cos'era qua? La spinetta dell'interruttorino che non era incastrata bene. Oh, quella radio è bella per quello perché c'ha tre scale, capito? C'ha lo smitter, il power e l'SWR. È perfetto, è con quello devi lavorare. Perché se attacchi lo strumento esterno, ti sfasa quello interno. È normale, no? Dove sei? Eccomi, eccomi. Questo è Natalino, è tocchino, è smanettone, è sempre ducchendi, fendi, boh, che pettina, oh. Una volta che ha trovato la quadra, vuole smontare tutto e fare tutto da capo, boh, boh. No, è che non mi ricordavo, guarda, io questo apparecchio ce l'ho avuto tanti anni fa, e non mi regolavo, e non mi so più regolare, adesso sto cercando di impararlo, torna, mi è sparita la cosa, dopo di che non la cosa, la fanguarla. Da Santiago 9 più 10 scendi a 9, c'è qualcosa che non mi quadra, capito? O vai da che piede che non è avvidato, c'è qualcosa che non sta funzionando bene, Se accordato bene, l'accordatore disinseriscilo, una volta che è accordato, disinseriscilo e metti in SWR e controllati le stazionarie. C'è qualcosa che non mi quadra. Vediamo, hai le andando bene? No, non so qui. Ma cosa devo disinserire? L'auto? E una volta che hai accordato l'auto, toglilo in fuori e guarda, metti in power il tastino, l'interruttore, e guarda se lo strumento ti segna stazionarie. Ne hai stazionarie senza l'automatico inserito? No, negativo. Ecco, allora l'automatico lascialo fuori, non si usa quella radio con l'interruttore auto inserito, serve solo per accordare e disinserire, e poi lo lasci disinserito e rimetti l'interruttore in power, ok? E aspetta che mi regolo il VAT. Metti il power e ti regoli lo smitter dove c'è scritto watt, lo metti a 20 watt di portante e lo lasci stare ad uscì. Allora. Watt è così adesso. Oh, lascialo stare così che stiamo andando bene, 9 più 10. Adesso sono sicuro che a 20 watt, anzi anche di meno. Perfetto, 9 più 10, è stabile segnato. Lascialo stare così e va più che bene, perché c'è il picchio in modulazione. E l'automatico lascialo disinserito, non serve a niente. Allora, ci non ci dici solo quando ti serve, quando devi fare l'accordo. Avanti, doppio rotto. Marco Vali mi devi insegnare a me, mi. No, io non me lo ricordo, mica è complicato, mi non ti credo che sia così che impari in 5 minuti. No, capo Fuleni. Sei da bravi. Oh. Beh, quella è sicuramente più complicata del 140, anche il 430, non avendo l'accordatore, però la linea è quella. Capito? Però quella devi fare sempre quei passaggi, automatico quando ti serve, SWR e poi pigi e accordi una volta che hai accordato. Interruttore, nuovamente in power, auto, fuori, disinserito. E la radio non ti crea problemi. Se non stai sempre andando con l'accordatore inserito, non va bene. Avanti Carlo, buonasera. Buonasera a tutti, Claudio, Natalino, Gianni, poi non so se ci siano altri, mi perdonino, ma ho appena acceso la radio. Riprendi Claudio, non volevo interrompervi. Assolutamente no Carlo, tranquillo, ciao, buonasera, ben ascoltato. C'è un altro Gianni che è Gianni Rubraffetta e Gianni Doppio Rum. Natalino, io e tu. Avanti Rubraffetta. Ehi, buonasera Carlo, ben entrato. Siamo qua, dai. Siamo, c'è Natalino che sto scherzando chiaramente, ogni tanto ne vuoi cagare una. Oi. Ho dimenticato perché non l'avevo sentito. Ciao Gianni, anche doppio rum, riprendi tu. Cappa, ciao Carlo, ben sentito, ben entrato. Spero di arrivarti bene, io mi trovo in montagna. Dove sei in montagna? A Usilo. Fondo scala qua. Santiago 9 più 10. 9 e 10. Guarda che è parito, è andato fuori di banda. Qualcuno stava parlando ed è scivolato, chi è? Io sono qua. Manca ancora Marco l'appello. Gli altri ci sono tutti. Natali, sono qua, sono. L'ho sentito anch'io. Mi sembra toccarlo. Sei scivolato tu, Carlo. Io sono qua. Ho rilanciato Gianni e poi non lo so. Qualcuno stava parlando e scivolato e si è spostato di canale. No, è che mi stavano splatterando, volevo vedere chi era. L'ho ricevuto anch'io lo splatter. Confermo. Cavagada. Qualcuno forte era. Ma sul 20 c'è gente che sta parlando, ma non penso che siano loro. Non lo so. Se no Marco ha una potenza allucinante. Confermo, lo sento anch'io. Arriva un segnale, Santiago 7 sotto, ma lo squelce alto. Però adesso ho abbassato un po' e sento anch'io che c'è qualcuno nei canali adiacenti che sta, insomma, pompando. C'è la tappignata sul canale 20, non so con chi sia. Con Giulio? È con Giulio, eh. Così è. Ah, hai visto? Come si fa per non disturbare il QSO? Ci si sposta e si fanno le prove. Invece spesso e volentieri sento QSO e tutti domande di controlli, bruvendi e fendi, e il QSO si spezza. E infatti, molta gente non entra proprio per questo motivo, ho ricevuto delle lamentele per quel motivo lì, perché tutti non si spostano e chiedono controlli qua. E quelli si scassano, la gente. E poi uno si rompe le palle, giustamente, no? Non è vero, è proprio così. Io ho ricevuto delle lamentele, non faccio nomi, però purtroppo la gente non è abituata che tutti chiedano controlli sempre nello stesso canale. Uno quando deve chiedere il controllo si sposta e chiede il controllo che deve chiedere. Almeno non interrompe il QSO disturbando quelli che ascoltano, quelli che parlano e tutti, capito? Molta gente non ben prende più paghissimi. E abbiamo parlato in due, io ho detto la stessa cosa, spesso e volentieri si interrompono questi show perché tra uno mi dà un controllo, che il controllo aspetta che provo questo, aspetta che provo quello, aspetta che attacco, aspetta che faccio. attimino, devo fare le prove. Pronti? Vai a fare le prove. Se no, il questione poi si interrompe, non si comprende più nulla. Avanti, caro. Sì, scusate che mi sto preparando per uscire tra una mezz'oretta e quindi sono in movimento dentro casa. Sì, già vi sto ascoltando, tanto sono soletto e ho messo a tutto volume. Sì, le prove forse è meglio dirottarle su altri canali, giusto per non interrompere, dai. Comunque, va bene anche così a volte, un po' di pazienza non guasta. Vai Natalino, buonasera. Buonasera Carlo, ben sentito. Sì, Gianni invece ce l'abbiamo forestiero, a Osilo, in quel di Osilo cosa fai di bello? L'aria fresca ti stai prendendo Gianni? Esatto, qua tira una brezza piacevole, c'ho tutti i due finestri della macchina aperti e mi sto facendo scorrere l'aria, mi sta accarezzando. Attenzione Catania, se ascolti il doppio rum dalla città di Sassari, cambio. Buonasera, ben sentito qua, salutando a tutti gli amici di Sola Santa, gli espressi si manda sempre saluta, avanti, cambio. Ciao collega, dai, sono in compagnia di amici, c'è un QSO qua a Sassari e ti rilancio Carlo, così parlerai anche con lui, poi facciamo girare la ruota, dai, se lo disturbiamo. Avanti Carlo. Sera, Salvatore in provincia di Catania, qua è Carlo, sempre dalla città di Sassari, che ti saluta, ti cordializza, e rilancio Claudio. Ciao Salvatore, ben ascoltato, 5-9 per te, segnale qua in Sardegna, ottima modulazione, vai Natalino. Ciao l'amico di Catania, Natalino Alfa 1 qua dalla città di Sassari, 5-9 per te il controllo, ok, avanti, chi altro c'è? Ah Gianni, avanti Gianni. Buonasera Salvatore, salutoni anche da queste coordinate, sempre Sassari in compagnia degli amici che hai appena sentito. Qua Santiago 78, oscillante Radio 5, avanti Salvatore. Sì, qua c'è anche te, mi arrivo più passione degli altri, dai. Non vi voglio disturbare il vostro personale. Mi dovete salutare a Gigi, la radio dire l'Espresso 50, provincia Catania. Salvatore lo saluta, salutate Maggi Giusto Vulcano e a tutti gli amici di Isola Santa, buona domenica. Scappa Salvatore, se vuoi restare resta, non c'è problema, è per noi. Te lo saluteremo tranquillamente se lo sentiamo, dai, sta entrando poco, ma se lo sentiamo te lo salutiamo. Oggi sono con l'apparato originale, sono solo di parecchio originale. Scappa, arrivi abbastanza bene, io adesso sono in altura, sono in macchina io. Come ti sta arrivando lì? Mi fa il Santiago 7 oscillante, da 7 a 8 radio super 5, bella modulazione. Grazie Salvatore, dai. Facciamo riprendere Natalino, avanti Natale. Scappa, dai, riprendete voi, io sto in ascolto, che adesso inizio a studiarmi quello che devo studiare, dai. Vi saluto tutti con Rex per me. Ma poi anche a casa ve li stanno dando. Tu hai rapporto con Santiago di nuovo, la radio Super 5. Ciao Natale. Ciao Salvatore, sto dicendo no, non ce li stanno dando a casa, però io me li metto a posto e mi faccio anche i calcoletti, così almeno alla prima mi faccio il calcolo, subito c'è il risultato, capito? Per quello me li sto mettendo a posto e così almeno mi metto con gli appunti che ho preso, no? Mi faccio i calcoletti con la calcolatrice, metto il risultato e tutto. Sì, sì, sì, fa bene, fa bene. Ciao Salvatore, un abbraccio, grazie per essere entrato a salutarci. Sì, sì, fai bene, fai bene. Così alla prossima lezione hai già un prospetto di quello che si è parlato, di quello che si è detto nella lezione precedente. Va bene, Antoni. Ma vamo a girare vendite. 9:10 Radio Super 5. No, poche se, lascia stare. Vai a girare allora, qui salutiamo Salvatore e vai Gianello Profeta. Sì, contraccambio i saluti a Salvatore, va bene. segnale oscillante, la propaganda è in evoluzione, dai. Saluto anche da questa parte, e niente, dai, facciamo girare la ruota, a chi tocca? Carlo, vai Carlo. Sia sempre qua, va benissimo Salvatore, se ci sei ancora, un caro saluto qua da tutti gli amici della città di Sassari, rilancio Gianni, vai Gianni. Ciao Salvatore, un abbraccio a tutti i siciliani, dai, Catania e zone limitrofe. Ti saluteremo Gigi Vulcano, però non ho copiato il tuo nominativo, se ci vuoi ripetere il nominativo così quando mandiamo i saluti sappiamo chi sei. Basta, ti devo dire a Gigi, ti saluta l'Espresso 50 Salvatore. Espresso 50 Salvatore, città di Malesso, provincia di Catania. Buonasera ragazzi, K-Gatto, in movimento sempre. Io non la dipendo, non voglio disturbare le vostre questioni. Come dico sempre, se benedico e facciamo le mani. Se non mi ci fosse, volimmi che bene. Salvatore saluta. Ciao Salvatore, un abbraccio, ci sentiamo. C'è qualcuno che chiama sottofondo, avanti. Avanti chi chiamava? Vabbè, sempre di qua. Sì, ho sentito anch'io qualcuno che salutava, chiamava. Ciao Salvatore, Espresso 50. Piacere mi ha fatto ascoltarti. Gigi è assente, oramai ha smontato tutto, si sta dedicando ad altro. Comunque se capita te lo saluteremo. Avanti, Natalino sta studiando, avanti Gianni Rubro Fetta. Era, mentre stavi parlando c'era qualcuno sotto. E niente, vediamo se ha voglia di entrare, avanti. La Sassari, qualcuno la Sassari. Boh, mentre stavi finendo l'ultimo passaggio c'era qualcuno sotto, boh, non te lo so dire. Non so se è propagazione, o qualcuno che vuole entrare. Piazza, forte e chiaro. Che, avanti. Come state? Come? Procede, come state? Come procede, come stiamo noi? Noi stiamo bene, procede bene. Con chi abbiamo l'onore di parlare? Toni, sempre Toni. In movimento. Sì, lì tre Toni in movimento, ma con la chitarra o senza chitarra? Senza chitarra. Ciao Toni, buonasera, ben ascoltato. Forse di tu che stavi parlando... Ti ho sentito già nel profeta. Arrivi un po' bassino qua, comunque riesco a tirarsi fuori abbastanza bene, 5-6, 5-7. Avanti Gianni Perù. K, ciao Toni, da dove parli? Non mi ascolti. Toni, mi ascolti? Toni, l'hai sentito a Gianni? Valido. Vabbè, dai. Comunque la propagazione sta facendo sentire e sono contento, dai, così almeno qualche DX me lo fa. I DX sono collegamenti diretti. Perché i DX sono questi, quando si apre la propagazione ti saluti con l'altra isola. Ieri c'erano due gare, la arrivavano qua, tutte e due dalla Puglia, da Bari, ma oramai, quando c'è propagazione, l'Alt Italia, Centro Italia, Sud Italia, non è DX, collegamento diretto, DX lo puoi fare, sono visti i brasiliani, visti il Portogallo, le Canarie, le isole Baleari, arrivano forte, allora magari fai un collegamento diverso, ma chi ti so... A livello locale arrivano. Lo so, ma non sono a Sassari, capito? Quello. E poi sono anche in macchina. Già va bene lo stesso. Mi piace parlarci. Quando. Ah, l'ho sentita la Puglia, eccetera, però io ero in mezzo ai palazzi che lo facevo. E anche la Sicilia. C'è anche la Sicilia, oramai oggi le due isole, solo le due isole si sentono. Buonasera. Ciao, ben ascoltati entrambi. Buon pomeriggio qui Antonio, direttamente dal versante ovest dell'Etna. Ciao Antonio, buonasera, 5-9-10 mi fai qua. No, siamo tutte e due a Sassari, anzi siamo in quattro. lui è un po' più su, io sono a 400 metri e il mio collega se n'è andato a 600 metri, però siamo uno di fronte all'altro qua, sotto la collinetta di Ursula, un paese montagna. Vediamo un po' se ti ha ascoltato Gianni Rubrofetta, poi Gianni Rubrofetta vai per il doppio rubro. Sì, buonasera, buonasera Antonio, sì ti ho copiato un po' basso, salutoni anche qua alla stazione Sassari, Nord Sardegna. 7-3 anche a te, dai, facciamo girare la ruota, avanti Gianni. Ehi, dai, ti saluto anche io dalla città, dal paese di Osilo, in montagna, dai. Mi hai sentito, cordialità, non so come stai arrivando perché io sono in barra mobile. Quindi da Osilo riesco a sentire su Sassari, da Toni, cambio. Abbiamo sentito anche tu.